penserei di procedere così, raccogliere le richieste di intervento in modo mischiato. Il professor Marcucci già si era prenotato precedentemente, e sentire gli interventi, almeno una prima tornata, diciamo, se avremo tempo potremo farne una seconda, e i vari relatori risponderanno a seconda che l'intervento sia indirizzato a uno o all'altro dei medesimi. Allora, ci sono altre richieste di intervento oltre a quella di Silvestro Marcucci? Ferretti? Visto che allora sembra esserci spazio, spero di non abusare. Accesa, mi metto anch'io, ma eventualmente mi cancello se c'è. Va bene. Allora, prego il professor Marcucci. Tempo ragionevole. Il mio intervento verterà sulla relazione del professor Ischè. Ma prima di procedere oltre, mi sento in dovere di portare i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte della Società Italiana di Studi Kantiani, che segue con viva attenzione questi convegni dal 90 in poi, li ricordiamo in ordine di tempo. Prima il convegno di Padova, Napoli e Macerata 1789-90 sulla critica di giudizio, poi 1992-93 a Lucca sul problema del male radicale e sulla stessa opera La religione, a Milano, come tu ben sai, alla Università Cattolica. E ora siamo qui tutti riuniti, ho visto, con un programma piuttosto intenso di lavoro. Se poi si tiene presente il fatto che i nostri cugini francesi hanno ora da poco terminato un convegno il cui titolo era l'année 1793, l'anno 1793, non fa che piacere constatare questo, come si diceva del resto all'inizio, questo continuo interesse, anche se poi si tiene presente che nel 95 ricominceremo, questo continuo interesse proprio anno per anno per tutta quanta la problematica kantiana. Vengo al mio intervento. Devo dire che ho apprezzato molto la relazione del professor Ischè, anche perché nella sua prima parte io ho imparato una cosa che non sapevo. Il nostro poeta, Gesué Carducci, toscano, ecco perché un pochino lo conosco, nella poesia Versaglia scrive testualmente, e credo di ricordarmi a memoria i versi, decapitarono Emanuele Kant iddio e Massimiliano Robespierre i re. Questi sono i due versi della poesia Versaglia. Io mi sono sempre chiesto, come mai questo poeta prende posizione su questi temi di cui lui poi non è che ne sapesse molto, e non è che mi convincesse nemmeno molto, anzi direi mi convinceva per nulla. Ecco, adesso, ora io so il perché, qual era la fonte, evidentemente Carducci conosceva la storia della religione e della filosofia in Germania da parte dello scrittore Heine, che era evidentemente vicino e si studia i suoi interessi. Veniamo ora a cose più interessanti e più impegnative, a questo concetto di, come dicevi, di doppia determinazione dei limiti, e su questo mi vorrei soffermare un poco. Sì, io sono perfettamente d'accordo su questa doppia determinazione dei limiti, perché si va in due direzioni. Una è la direzione cosiddetta, epistemologica, l'altra è una direzione filosofico, metafisica, religiosa. Mi pare che uno dei meriti della relazione del professor Ischè è quello di aver fatto vedere come il problema dei limiti della scienza stia alla base delle preoccupazioni kantiane. Io sono perfettamente d'accordo con questa affermazione, e lo si nota ancora meglio questo problema del limite, se volete, anche dell'incertezza che sta alla base della scienza, se si prende la critica del giudizio. laddove le affermazioni dello scienziato a volte sono definite come mere congetture, Vermutungen, termine kantiano, o kantiano-popperiano, diciamo, e a volte sono definite come ardite avventure della ragione, specie quando si tratta di affrontare quel problema che stava tanto a cuore a Kant, filosofo e scienziato, il problema delle cosiddette teorie della Terra. Però il professor Ischia è andato oltre. Non solo ha affermato che questo problema è importante per la scienza in Kant, ma come riferimento alla scienza contemporanea ha detto che oggi la scienza non ha più quelle certezze indubitabili, ma è essa stessa resa inquieta proprio da questo problema dei limiti che la scienza si pone. Ecco, ora mi preme fare una connessione tra, proprio perché si parla di Kant, tra quanto viene affermato in Kant e quanto si afferma nella scienza contemporanea. Far vedere il legame brevissimamente portando una testimonianza molto semplice. Come tu ben sai, Norbert e noi abbiamo lavorato insieme a quel saggio pubblicato sull'Archiv che riguardava alcune, non solo riguardava Kant e la critica del giudizio, ma alcune considerazioni sul rapporto Kant e Popper. Questo articolo l'abbiamo mandato a Popper, Popper l'ha visto, non solo l'ha definito interessante, ma ha anche affermato che da questo tipo di lavoro kantiano, ich habe viel gelernt, io ho imparato molto, questa è la frase. Voglio dire che abbiamo l'approvazione completa e totale di Popper, che poi è uno dei maggiori epistemologi a noi contemporanei, per quanto riguarda questa inquietudine, come tu l'hai chiamata, che sta alla base della scienza in generale, e io aggiungerei, anche della scienza kantiana in particolare, se non si tiene però presente quanto Popper mi ricordava, cioè la posizione che Kant assume nell'83 nei Prolegomeni, dove era presente solo la fisica e la matematica. Non, se non si tiene presente nemmeno i primi principi della scienza della natura, dove tu mi facevi notare che lì ancora lì il concetto di scienza è un concetto di scienza rigido, chiaro. Del resto tu l'hai detto, la matematica e la fisica serve da guida nell'Ottocento e anche in Kant per definire il concetto di scienza, ma un concetto di scienza più ampio che Kant usa in molti scritti anche di questo periodo, non so, presente le recensioni di Aldo Herder, o presente lo scritto in polemica con Foster dell'88, ma soprattutto nella critica del giudizio e nell'opus postum. Una direzione sul concetto di limiti, seconda direzione sul concetto di limite che ci porta al problema di quest'opera e ai problemi di cui stiamo discutendo in questi giorni. E qui ritorna la domanda che ti feci già a Milano: la religione nei limiti della sola ragione o la religione nei limiti della semplice ragione? Il termine tedesco è bloß, della mera ragione. Che vuol dire della mera ragione, della semplice ragione? Indubbiamente la ragione morale è presente, non vorrei che ci fosse, ma non è forse possibile che Kant pensasse alla ragione tout court, alla ragione in quanto tale, a quella ragione la quale come l'intelletto manca di intuizioni intellettuali, questo va detto, e lo si capisce bene non solo da alcuni incisi della critica, ma lo si capisce bene anche e soprattutto dallo scritto contro Eberhard del 1790, dove Kant ripete continuamente che alle nostre facoltà conoscitive superiori, intelletto e ragione, non è data intuizione intellettuale. Allora noi abbiamo una ragione, e una ragione, una semplice ragione, congettura, ipotesi. Non è il caso che Kant pensasse a quella Femus Uberaut di cui lui stesso parla, e dove ne parla? Ce l'ha ricordato prima il professor Mori in una parte importante della critica ragion pura, cioè nel canone della ragion pura, laddove distingue proprio un intelletto, un Verstand Uberaut, tanto importante a mio avviso per capire l'estetica kantiana, e un Reiner Verstand, un intelletto puro. E così ci parla di una ragione in generale, di una ragione pura e di una ragione pratica. Non è forse il caso di chiederci se a monte di tutte queste distinzioni Kant pensasse ad una ragione in generale che le inglobasse praticamente tutte, ma che non avesse le caratteristiche peculiari di nessuna di esse? Grosso modo come avviene per la facoltà del giudizio. Sì, giudizio teleologico e giudizio estetico, giudizio riflettente e giudizio determinante, ma Kant parte da una Urteilskraft Uberaut, la quale poi si scinde in tante varie facoltà del giudizio. La facoltà del giudizio poi è una, è quell'Urteilskraft überhaupt di cui già si parlava e di ragion pura. Non è possibile che la stessa cosa, ed ecco riformulo la domanda che fece al professor Livetti, e direi si ponga anche a questo livello, cioè, e allora riesce a capire che non nella sola ragione, no, nella semplice ragione, la quale ragione per Kant, è, usiamo un termine nostro oggi, è un po' depotenziata. E allora riesco a spiegarvi tutto quello che Olivetti tu ci dicevi, cioè che diversamente dal versuch fichtiano non si ha una deduzione della rivelazione. Riesco a spiegarmi il problema del male radicale che, nonostante quello che ci ha detto Manganaro, poi resta sempre nella religione un qualcosa che non si riesce a risolvere a livello di ragione. E riesco a spiegarmi anche la distinzione fondamentale che c'è tra una tematica della religione in Kant in generale e la tematica della religione in Hegel, che tu ci ricordavi, cioè la rivelazione è autonoma per Kant, ci dicevi, non viene mai inglobata nella filosofia, io direi nella ragione, e poi la ragione è lo strumento fondamentale della filosofia, non viene mai inglobata nella ragione, diversamente da quanto avviene in Hegel, e non so, il professor Cesa ci dirà come stanno le cose in Fichte, diversamente a quanto tu dicevi che avviene nello scritto del 72, proprio per queste caratteristiche peculiari della ragione kantiana, di una ragione che secondo me va presa in blocco, in toto, non ragione pratica, ragione pura, ragione in generale, ci sono tutte e tre in Kant. L'espressione Fernfuberaute non è mia, ma è di Kant, ragione in generale. E allora andando a monte, e allora a questo punto poi riesco, tanti problemi riesco a risolvere, altrimenti non vedo come ne possa venire fuori. Grazie. Grazie. Allora, il professor Ferretti, credo che la seduta si debba concludere alle 12.45, ricordo bene. Ecco, allora prego gli interventori, se mi passate il termine, di tenere presente che poi dovranno esserci anche le risposte, dunque abbiamo solo 25 minuti in complesso. Il mio intervento riguarda la relazione del professor Mori, che ho apprezzato molto, ma anche dato da pensare, perché non conoscevo soprattutto la parte della riflessione. E mi ha dato da pensare, ma mi rimangono alcuni punti interrogativi, soprattutto sul tentativo di riprendere nel Kant della religione questa concezione di una felicità inerente praticamente alla virtù, no? Allora, due punti interrogativi. L'uno riguarda proprio la citazione che tu porti per parlare di felicità morale come sicurezza della realtà e della permanenza di un'intenzione sempre in progresso verso il bene. Ecco, se ho presente bene, Kant in quel passo aggiunge perché, avendo la sicurezza di giungere alla pienezza della vita morale, ho anche la sicurezza che avrò la felicità data da Dio. Ecco, mi sembra, se non sbaglio, che quel testo lì non parli tanto di di una felicità inerente alla stessa vita morale, ma visto che io ho la sicurezza di permanere nell'intenzione morale, ho come se già avessi il premio inerente a questo, e allora non mi sembrerebbe proprio portare in quella linea. Un'altra perplessità mi viene dal fatto che giustamente hai richiamato il testo del canone dove si dice che la legge morale sarebbe vuota chimera, no, se non ci fosse, ma un testo simile mi pare sia nella critica della ragion pratica, dove si dice che la legge morale senza l'esistenza di Dio non avrebbe alcun senso. E quindi non vi vedrei una grande differenza. Ecco, questa, per cui la tesi che Dio interverrebbe solo indirettamente, cioè confermando o dando l'aiuto a vivere moralmente, e non anche direttamente, cioè aggiungendo alla felicità la virtù, mi lascia un po' perplesso, ma mi fa pensare, ecco, tutto quello che ho detto. Grazie. Grazie. Professor Cesa. Anch'io vorrei intervenire sulla relazione Mori, che credo abbia interessato tutti per la capacità di mostrare come in fondo Kant avesse un problema nella sua fase, direi, pre-critica o nella prima fase critica, abbia poi scelto un'altra soluzione negli scritti di argomento pratico, abbia recuperato il problema rielaborandolo nel libro, nell'ultimo decennio della sua vita, diciamo così, no? E le questioni, dico, mi è sembrato molto convincente quella successione di passi e di motivi che Mori ha presentato. Soltanto gli vorrei porre proprio molto domande brutali e quindi anche banali, no? Cioè, primo, in una direzione un po' diversa da quella di Ferretti. Dalle cose che ci ha detto viene fuori ovvero l'ipotesi che la religione sia una drastica rettifica degli scritti etici, ovvero uno scritto che mette in luce motivi che negli scritti etici non erano comparsi con quel peso, ma oppure può venire fuori per la morale. Perché se nella religione l'indicazione del ruolo centrale della finalità è intesa come tale da rendere possibile il passaggio dall'universalità della legge alla determinazione della volontà, allora in fondo la religione è un soccorso alla finitezza umana che non investe quella che è la struttura della purezza della legge morale. No. Se invece intendiamo che l'indicazione della finalità entra dentro lo stesso comandamento morale, ne fa parte della sua struttura, allora a questo punto la morale finisce per doversi appoggiare interamente alla religione e la religione finisce per essere sul serio non tanto una integrazione quanto l'indicazione della insufficienza della morale. E proprio e per mettere la questione in una formula anche più banale, postulare l'esistenza di Dio quale compare nella ragion pratica, è religione o non è religione? No. Ecco, e se non è religione, allora la postulazione dell'esistenza di Dio ha un valore teoretico che è sufficiente ad assicurare l'autonomia della morale, ma che non ha di per sé quella forza operante sull'animo, per dir così, no? Che è quella che invece potrebbe essere necessaria per giustificare l'introduzione della religione. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Unico. Scusate, io volevo ancora aggiungere una riflessione ancora sulla relazione del professor Mori, perché ha toccato un centro dei miei, praticamente dei miei interessi in questi ultimi anni, e quindi volevo anche io sottoporle una questione. Mi sembra che ci sia almeno io ho trovato un unico testo così esplicito rispetto al problema del rapporto tra l'incongruenza, tra la mancanza di felicità e un sistema universale di moralità nelle lezioni di filosofia morale, in questo quaderno Collins, che probabilmente risale al corso dell'84-85, e dove Kant dice: se il mondo fosse pieno, io adesso qui traduco un po', ho gli appunti in tedesco, fosse pieno di tali creature razionali che si comportassero tutte bene e quindi fossero degne della felicità, ma fossero circondate dalle circostanze più misere, eccetera, allora non ci sarebbe nessuna felicità e dunque folglich wäre da kein höchstes Gut, e quindi non ci sarebbe nessun sommo bene. E poi viceversa, naturalmente, se tutte le creature fossero circondate da felicità e non ci fosse però nessun buon comportamento in Wohlverhalten, non ci sarebbe quindi, non sarebbero creature degne di essere felici, neanche allora ci sarebbe un sommo bene. Mi sembra questo pone, diciamo, il problema cruciale che poi viene risolto nella critica della ragione pratica. Viene messo in... Questo contraddice naturalmente il discorso che è stato condotto in una parte della riflessione e nel canone della critica della ragione pura, in cui Kant parlava, come tu hai citato, questo sistema di una moralità autoremunerata, in cui se tutti si comportassero bene, allora verrebbe anche la felicità. Bisognerebbe, credo, io non l'ho potuto verificare perché ultimamente mi sono occupato di altre cose, se questo quaderno corrisponde anche al quaderno Keller della lezione del 77, per vedere se c'è una contraddizione anche nelle lezioni degli anni 70. Un altro elemento che voglio dire, credo che sia però più sostanziale, è quella perplessità che è già venuta fuori, cioè se la soluzione che Kant mette in campo nella critica della ragione pratica e poi ribadisce e teorizza più sostanzialmente nella critica del giudizio sia in qualche modo messa un po' in crisi o in discussione nel scritto sulla religione. Io avrei in mente una lettura un po' diversa, è giusto il discorso che tu hai fatto, l'analisi che hai fatto ovviamente è ineccepibile sul concetto di felicità che viene fuori dallo scritto sulla religione. Tuttavia mi sembra che la teoria del sommo bene viene richiamata solo per sommi capi nella fuorede della religione e soprattutto in quella lunga Anmerkung. E lì, da quel passo lì, non si può naturalmente stabilire in che senso. Dove viene richiamata? Nella fuorede, nella Anmerkung, nella nota, in quella lunga nota di cui parla appunto del scopo finale, eccetera. Di lì probabilmente non si può capire bene in che senso intenda il riferimento alla felicità da quel lato lì. Però mi sembra, dall'impostazione generale dello scritto sulla religione, mi sembra che questo presuppone lo scritto sulla religione presuppone già la religione aus bloßer Vernunft e lo sviluppa, come aveva ricordato anche il professor Olivetti, in un'altra direzione, la riflessione sulla religione. Allora, all'interno del discorso che conduce nella religione e che non a caso si parte dal problema del male radicale e sviluppa la riflessione sulla relazione tra il superamento del male e il riferimento a Dio, la necessità di ricorrere in qualche modo all'ipotesi di Dio rispetto al problema del male morale, in questo contesto c'è anche una diversa articolazione del problema del sommo bene che emerge nel terzo capitolo riguardo al sommo bene etico come comunità etica, ma non mi sembra che sia, con questo finisco, solo un elemento del sommo bene e non l'intero complesso del sommo bene. Grazie. Allora abbiamo appena un quarto d'ora e direi che i relatori possono immediatamente passare alla risposta, il professore Inske? Beh, ma io rinuncio perché se sottrarrei tempo, o se ci sarà tempo allora ben volentieri, ma mi sembra mio dovere dell'ufficio in cui fungo di non rubar tempo. Vorrei dire soltanto due parole sulla relazione fra Kant e Popper. In un certo senso anche Popper parla sul problema dei limiti della scienza. Ma Kant e Popper parlano, mi sembra, su cose diverse. Per Popper i limiti della scienza sono il carattere generale della scienza. La scienza è soltanto una conjecture, una ja, una Annäherung, una approssimazione permanente alla realtà. Ma la realtà è per Popper la realtà delle cose in sé. Popper non conosce questa differenza generale fra fenomeni e nomini, fra mondo sensibile e mondo intelligibile. E per questa ragione la filosofia di Popper ha una forma di realismo che per Kant è straniero. Se Popper dice che Kant non ha visto questo carattere generale della approssimazione, Popper pensa sempre soltanto sulla fisica, e tu hai visto con molta ragione che nella scienza naturale le cose sono molto diverse. Ma per Popper è sempre il problema della approssimazione alla realtà in generale. Questa distinzione di Kant, se io capisco Popper, Popper ha capito mai. Questo è tutto. Grazie per la risposta molto chiara e per l'italiano della risposta anche. Altrettanto chiaro. Il professor Mori. Grazie. Allora, cerco di rispondere innanzitutto al professor Ferretti. Due erano le obiezioni che mi ha rivolto gentilmente. La prima riguardava la definizione della felicità morale. Riassumo un po' la questione. La definizione della felicità morale che io avevo dato, che Kant dà, che io avevo riportato, era questa: la sicurezza di essere sempre soddisfatti del proprio. La sicurezza della realtà e della permanenza di un'intenzione sempre in progresso verso il bene, senza mai ricadere nel male. Ora, è vero che sulla base di questa definizione non si evince ancora che la felicità morale sia una forma di consapevolezza, questa un po' era mi pare l'obiezione, sia una forma di consapevolezza della propria virtù. Questo però non è neanche escluso da questa definizione, quindi mi pare che questa definizione debba essere integrata con altre definizioni più chiare su questo punto. E per questo io ho citato anche nella relazione un'altra frase di Kant che compare in una nota in queste pagine, non so se sia proprio legata a questa o due pagine dopo, in cui la felicità morale viene definita come consapevolezza da parte dell'uomo di progredire bene. Quindi non penso che di essere molto lontano e non è una frase, adesso non ho qui il contesto, ma non è una frase estrapolata da un contesto che in qualche modo indebolisca questa coincidenza della felicità morale con una forma, con la consapevolezza, poco oltre lo ribadisce usando il termine coscienza. Quindi penso di non essere andato troppo lontano dando questa interpretazione. Per quanto riguarda l'altra domanda, mi pare la domanda fosse questa: nella critica della ragion pratica si dice che la legge morale senza l'esistenza di Dio non avrebbe alcun senso. Ecco, innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, devo fare una precisazione che vale poi anche per le domande rivoltemi dal professor Cesa e da Cunico. Qui, per brevità, ho contrapposto le posizioni. In realtà si tratta di una contrapposizione di accenti, non sono posizioni che si escludano reciprocamente. A testimonianza di questo potrei leggere una mezza pagina in cui avevo appunto fatto questa attenuazione che non ho letta. Quindi, nella critica della ragion pratica, ad esempio, è anche presente già un concetto di felicità sovrasensibile, basta pensare al fatto che il postulato di mortalità dell'anima è già pienamente esposto in quella dottrina, in quell'opera, e tra l'altro proprio a proposito dell'immortalità dell'anima c'è un periodo, una serie di frasi che ricalcano molto da vicino la definizione della felicità morale di cui abbiamo parlato prima. Viceversa, questo rispondo anche già un po' a Cunico, non è che nella religione venga esclusa completamente una teologia morale che passa attraverso la natura, però si pone invece l'accento più sull'altro elemento, sulla felicità morale. Ecco, e quindi non, certo che anche nella critica della ragion pratica si sottolinea l'importanza dell'esistenza di Dio per la morale, però ecco, su questo mi sembra di poterlo affermare. Nella critica della ragion pratica sicuramente Kant sta molto attento a non dire che questo entra nell'elemento dell'esecuzione della legge morale. Sta molto attento a dire che che non c'è distinzione tra il riconoscimento della legge morale e l'esecuzione della legge morale, perché l'esecuzione della legge morale ha come unico movente il rispetto che è immediatamente intrinseco al riconoscimento della legge morale. Quindi, sotto questo aspetto, la critica della ragion pratica non solo si differenzia nettamente, questo è chiaro, dalla riflessione e dalla critica ragion pura, dove invece questi due momenti erano distinti, ma mi pare che si differenzi anche dalla religione, dove invece l'elemento religioso, cioè la credenza nel senso di Dio, del sommo bene, della felicità, anche come componente del sommo bene, diventa determinante. Qui intanto vengo a rispondere anche alla domanda di Cesa, non determinante nel senso che entri nel comandamento morale, perché qui appunto Kant, come ho detto prima, distingue molto nettamente tra il fine principio e il fine conseguenza, e nega nel modo più assoluto che il sommo bene possa entrare in qualche modo, possa figurare in qualche modo come fine principio, che quindi possa entrare nella determinazione del comandamento morale. Il comandamento morale ha una sua fondazione assolutamente autonoma, questo lo ribadisce a chiare lettere. Però non è altrettanto chiaro, anzi secondo me è chiaro in senso, nel senso contrario, il sommo bene entra invece nell'elemento dell'esecuzione, quindi diventa un elemento importantissimo per il soccorso, per usare di nuovo le parole che vi ho usato, il soccorso, per il soccorso. Ecco, cosa che non c'era, secondo me, Ferretti forse dissenterà da questo, ma non c'era nella critica della ragion pratica. Nella critica della ragion pratica la religione non è un aiuto, ecco, che viene offerto alla morale. La morale non ha bisogno di questi aiuti. Quindi, ecco, non so se ho già risposto con questo in parte. Ecco, dice Dio è solo religione o non è solo religione. Nella critica della ragion pratica, secondo me, Dio più che essere religione è un'altra cosa, è un'ipotesi teoretico-pratico che risolve un problema. Nella religione diventa soprattutto religione, questo è il punto. Cunico, lezione di filosofia morale, si pone appunto il problema dell'esigenza della convergenza tra mondo morale, mondo fisico, perfezione morale, perfezione fisica. E Cunico ha citato appunto un passo relativo a questo. C'è però anche la risposta già nelle lezioni di filosofia morale. Sotto questo aspetto forse non sono stato chiaro, perché dall'intervento di Cunico ho riportato l'impressione che Cunico avesse inteso che le lezioni di filosofia morale fossero da me accostate piuttosto alle riflessioni, perché mi ha detto allora si troverebbe una contraddizione con rispetto alle riflessioni. Invece no, le lezioni di filosofia morale fanno, secondo me, già corpo per quanto riguarda la risoluzione di questo problema con la critica della ragion pratica. Quindi c'è già la proposta, c'è già una risposta a questo problema. E c'è quindi una netta divaricazione rispetto alle riflessioni. Poi l'ultima osservazione di Cunico era, che il sommo bene, inteso come comunità etica, nella religione è soltanto un elemento, non esaurisce la definizione del sommo bene stesso, cioè l'elemento comunitario è soltanto una parte del sommo bene, ma non esaurisce la definizione del sommo bene. E anche su questo posso essere perfettamente d'accordo, anzi sono perfettamente d'accordo, però secondo me è molto importante, ai fini del mio discorso, il fatto che questo elemento nuovo venga fuori, perché in realtà già nelle opere precedenti si parlava in qualche modo di una dimensione collettiva legata al sommo bene. Il concetto di regno dei fini è in qualche modo legato a questo, è inseparabile da questo, però il concetto del regno dei fini rimane già nella fondazione, che tra l'altro, ripeto, è l'opera più anti-eudemonistica di Kant, cioè l'idea del concetto di regno dei fini, però rimane un ideale da raggiungere, un ideale normativo, mentre nella religione viene sottolineato questo aspetto comunitario come un elemento propulsivo dell'azione morale. Cioè, ancora una volta ritorniamo al discorso di prima, anche questo rientra sempre nella fondazione della esecuzione anche della legge morale, che prima non c'era. E del resto mi pare che in un passo della religione Kant dica esplicitamente che la fede nel popolo di Dio, nell'elemento etico, nell'elemento comunitario del sommo bene, sia un dovere del genere umano, non dell'uomo, perché non riguarda più, prego? No, dico infatti. Però non riguarda più la esecuzione del singolo comando morale, ma riguarda appunto in qualche modo la fede in una dimensione che esce già al di fuori del comando morale. Non so se... Grazie, grazie anche al professor Mori. Siamo un paio di minuti al di fuori dei termini temporali che ci erano stati dati. Ma il dottor Menestrina deve ancora fare un paio di comunicazioni, vero?